Dagli incontri nascono sempre nuovi stimoli, nuove idee. Ma quando ad incontrarsi sono dei musicisti, ecco che nasce qualcosa di profondamente diverso. Qualcosa che rimane e aggiunge una nuova nota sul pentagramma. L'esperienza dei magnifici e di destini incrociati in un nuovo programma, nel quale, attraverso i loro incontri, i grandi della musica danno vita a sorprendenti connessioni per creare nuovi mondi musicali. Radio 24 presenta I Magnifici Destini, un programma di Giacomo Zito. Colpito al cuore, fulminato da un infarto, è morto in Svizzera Lucio Dalla, cantautore, artista, musicista, menestrello d'Italia, che se ne va. Tutti i telegiornali del nostro paese lo scorso 1 marzo hanno riportato la stessa triste notizia, quella della scomparsa improvvisa di uno dei cantautori italiani più amati. Lucio Dalla avrebbe compiuto 69 anni 3 giorni più tardi, il 4 marzo, lo stesso giorno reso celebre da uno dei suoi intramontabili successi, quella 4 marzo 1943, che nel 1971, sul palco del Festival di Sanremo, dischiuse finalmente il suo talento al grande pubblico. Dice che era un bell'uomo e veniva... veniva dal mare, parlava un'altra lingua, però sapeva amare. E quel giorno lui prese a mia madre sopra un bel prato, l'ora più dolce prima d'essere ammazzato. Di certo anche queste note hanno risuonato a Montreux la sera del 29 febbraio scorso, in occasione di quello che è stato il suo ultimo concerto, ma che avrebbe dovuto essere invece solo la terza tappa di una lunga tournée in giro per l'Europa, l'ennesima, ancora una volta benedetta dall'entusiasmo e stretta nell'abbraccio ideale di un pubblico vastissimo. E non era solo il pubblico, la gente, ad amare Lucio Dalla. Anche i colleghi hanno sempre nutrito sentimenti di profondo rispetto e ammirazione nei suoi confronti. A parlarne con un filo di voce comprensibilmente rotta dal pianto è il suo eterno amico Gianni Morandi. Mi ha colpito questa notizia, veramente non riesco ancora a riprendermi e non so cosa dire, perché mi manca un grandissimo amico, oltre al fatto che lui è uno dei più grandi artisti, che ha lasciato delle tracce incredibili che nessuno potrà mai cancellare, a parte che era un grandissimo autore, ma anche un grande cantante, un musicista, un jazzista, un uomo che si inventava continuamente delle cose nuove, che parlava a tanta gente, che sapeva comunicare, sia con la gente semplice che anche con qualcuno che culturalmente era più preparato. Lui è stato veramente un artista unico in Italia, unico. Gianni Morandi non solo condivideva con Lucio il mestiere di cantante, ma anche l'amore viscerale per una città. Ed è proprio da questa città, dalle sue vie e soprattutto dalle sue piazze, che partiamo a raccontarvi la storia di un uomo partito da un capoluogo della provincia italiana e arrivato a suonare niente meno che al Madison Square Garden di New York. Il capoluogo di cui stiamo parlando, naturalmente, è Bologna. Le vedete queste case dal colore un po' rossastro? E questi chiostri, questi portici che trasudano cultura, una cultura antica, enciclopedica, stratificata? E il profumo di ragù che si sprigiona dalla cucina di questa piccola trattoria, così intenso e invitante, lo sentite? Eccoci qui, a passeggiare per Bologna, città dotta come la sua storica università, grassa come la sua cucina sostanziosa e opulenta, rossa come i mattoni delle sue case e come il colore politico che storicamente ha unito molti dei suoi abitanti sotto la stessa bandiera. Bologna, una vecchia signora, dai fianchi un po' molli, col seno sul piano padano ed il culo sui colli. Bologna è adagiata nella pianura padana con quel suo grosso sedere che è già un poco Romagna e in odor di Toscana, per dirla con Francesco Guccini. E proprio a causa di questa sua posizione strategica di raccordo tra Nord e Centro Italia, che negli anni durissimi della Seconda Guerra Mondiale Bologna viene presa di mira da una serie pressoché interminabile di bombardamenti. Il 1943 è un anno funesto. Il 16 luglio gli aerei della Royal Air Force britannica iniziano a colpire impianti elettrici e snodi ferroviari. Lucio Dalla ha solo pochi mesi. Bolognese doc a tutti gli effetti, avi e bisavoli compresi, Lucio nasce da Iole Melotti, sarta e casalinga, e Giuseppe Dalla, direttore del club cittadino di tiro a volo. Il padre purtroppo muore quando Lucio ha soltanto 7 anni. La mancanza della figura paterna lo rende piuttosto indisciplinato, scontroso e decisamente poco propenso allo studio. Prima ragioneria, quindi il liceo classico, infine quello linguistico. Un percorso scolastico tortuoso e incompleto, fino alla più ironica delle dichiarazioni. Il mio titolo di studio è il battesimo. Sempre irrequieto e con una grande voglia di mettersi in mostra, Lucio prende parte a svariate recite parrocchiali in cui si allena a stare su un palcoscenico, coltivando la sua passione per il teatro e più in generale per lo spettacolo. È un modo per accarezzare il proprio ego, per farsi bello agli occhi di se stesso. La musica nel frattempo è già entrata da un pezzo nella sua vita, fin da prima della sua nascita. Lo zio Ario Dante Dalla, infatti, era stato un cantante melodico piuttosto popolare negli anni 40, quando Lucio era piccolo. Per un lungo viaggio, come vorrei con lui partire, triste lo saluto con i miei sospiri. La madre di Lucio, a sua volta appassionata di musica e convinta del talento precoce del figlio, cerca di instradarlo immediatamente sulla via delle 7 note. Credo di aver cominciato 2 anni o 3 anni, perché mia madre era un'appassionata di fisarmonica, ma piccolissimo mi regalò una fisarmonica che io cominciai a odiare fin dall'inizio, perché non mi piaceva sta affare che si doveva aprire e chiudere per suonare. Però fu il mio primo strumento. La fisarmonica è un modo come un altro di avvicinarsi precocissimo alla musica, ma non è il modo giusto, anzi non è lo strumento giusto. Ci vuole qualcosa di più soft, di meno chiassoso, di meno fisico, qualcosa che non implichi la necessità di agitare furiosamente le braccia per emettere dei suoni. Lucio da bambino è già un esteta e non riesce proprio a vedersi come suonatore di fisarmonica quando gli regalano un clarinetto per lui e la svolta. Impazzivo per questo strumento, ho cominciato a suonare questo strumento e l'ho suonato per tanto tempo che sono diventato bravo senza andare a lezione. Tant'è vero, non hai avuto mai un maestro? Ho avuto per tre lezioni un maestro che mia madre gli dava 500 lire, io ne tenevo 250 e lui 250 e non andavo mai a lezione. Lucio, in combutta col maestro, salta le lezioni di musica. Preferisce imparare ed esercitarsi da solo. Del resto è sempre stato un po' allergico a qualunque forma di autorità, persino quella materna. La sua idea di apprendimento autodidatta, oltretutto, non passa necessariamente dai luoghi tradizionali dell'intimismo adolescenziale, uno su tutti, la propria cameretta. Lucio ha un'energia e una verve artistica incontenibili. Le 4 pareti di una stanza non possono certo arginarle. Meglio lasciare che si sprigionino sopra le assi di un palcoscenico. È così che un ragazzino di appena 15-16 anni inizia a bazzicare i locali della sua città dove si suona il jazz. Bugigattoli a volte un po' malfamati, non tanto perché vi abbiano luogo episodi incresciosi, ma per quell'aria fumosa, esotica, trasgressiva che vi si respira. D'altronde, se suoni il clarinetto, non puoi fare altro che questo, dedicarti anima e corpo al jazz. E se sei bravo, e Lucio Dalla lo è senza alcun dubbio, puoi avere anche la fortuna di dividere la scena con i grandi venuti dall'America, da terra e da città che fino a quel momento ti era solo concesso di immaginare. Però ho suonato anche con Chet Baker, ho suonato anche con Charlie Mingus in Francia, ho suonato con Eric Dolphy. Ecco il nome del primo gigante della musica con cui si intreccia il destino del giovane Lucio. Lui è Chet Baker, idolo americano del jazz e icona incontrastata delle sue derive più cool. Chet Baker, che alla fine degli anni 50 ha appena 30 anni, è già un trombettista di fama mondiale. Il potere ammaliante dei suoi assoli di tromba è noto a tutti. D'altronde, il suono, l'allure jazzy di certi strumenti è unico e irripetibile. Trombe, tromboni, sassofoni, clarini, in quegli anni possono significare una cosa sola. Vogliono dire jazz. Il jazz è il presente e il futuro. Forse è l'unico modo possibile per lasciarsi alle spalle il ricordo ancora fresco del dopoguerra, soffiarlo via con tutto il fiato che si ha in corpo, lo stesso fiato che si usa per far suonare gli strumenti riempiendo l'aria di note melodiose, di echi, addirittura di speranze. È stato amore a prima vista. Non ho mai, mai più smesso di suonarla. Il già celebre Baker alla fine degli anni 50 viene in tournée in Italia. E quale città migliore di Bologna per respirare l'atmosfera più cool della nostra penisola? A New York e a Bologna era possibile una cosa del genere, basta. Ci passavano personaggi pazzeschi. Quando ci sono arrivato, mi sono trovato nel mezzo di una vera scena del jazz. Ognuno veniva qui e diceva quello che c'era da dire musicalmente, nel puro stile bebop di allora. Respiravi jazz in tutta la città. Fuori dai jazz club a Bologna c'è sempre la fila. Figuriamoci se a suonare c'è il grande Chet Baker con i suoi leggendari assoli di tromba e la sua voce intensa, tormentata. Baker è il re del cool, ma l'aggettivo cool, che tecnicamente significa freddo, non è da intendersi in senso dispregiativo. Si tratta piuttosto di una notazione di stile. Il cool jazz è più calmo, più quieto rispetto al cugino bebop ed è privo di evoluzioni armoniche troppo complesse. Chi suona il cool jazz ha un atteggiamento rilassato, a tratti imperturbabile. Chet Baker, con il suo approccio etereo e apparentemente distaccato, conquista l'attenzione di tutti e di un giovanissimo Lucio Dalla, soprattutto. E lo stesso Baker a parlarci del proprio rapporto rilassato e fluido con la musica. L'unico modo intelligente di vivere questa vita è trovare qualcosa che ti piaccia davvero fare. E allora lo farai meglio di chiunque altro. E non avrai problemi. Se è vero che l'improvvisazione polifonica, e soprattutto quella solistica, è tra le principali caratteristiche del jazz, è inevitabile che il sedicenne Lucio, avendo l'immensa fortuna di dividere il palcoscenico e di suonare accanto al suo idolo d'oltreoceano, ne assorba l'essenza più profonda. Grazie al jazz, Dalla esercita la sua passione e la sua attitudine nei confronti della musica. Lasciarsi andare, improvvisare, seguire il flusso delle note credendo fermamente che porteranno da qualche parte, anche se ancora non si sa di preciso dove. Lo scat è una forma di canto improvvisato e dunque in quanto tale appartenente alla cultura jazz. È l'imitazione attraverso virtuosismi con la voce e del suono degli strumenti musicali. Lo scat non prevede l'uso di termini di senso compiuto, ma quello di suoni privi di significato eppure armonici e accattivanti, utilizzati in chiave ritmica e melodica. Sarà questo il punto di raccordo per Lucio tra una musica fatta di strumenti e una fatta di parole. Dopo l'esperienza sui palcoscenici bolognesi con Chet Baker, Lucio non ha più alcun dubbio. Nella vita vuole fare a tutti i costi il musicista. Il talento certo non gli manca e così inizia a militare in vari complessi. Nel 1960 partecipa al primo festival europeo del jazz e dal 1962 inizia a suonare con i Flippers, formazione che accompagna in tournée il cantante Edoardo Vianello. Lucio si diletta con il clarino e impressiona il pubblico con le sue fulminee e strepitose performance improvvisate di skat, brandelli deliranti e geniali del suo complesso mondo interiore. Suona in un gruppo, ma la sua indole è quella del solista, di un outsider, di un folle guastatore che con la musica leggera, che nei primi anni 60 va per la maggiore, non ha molto a che spartire. Ho fatto musicista jazz molto giovane, mi sono molto divertito e guardavo un po' dall'altro la musica leggera, i canzonettari, ecco. È il 1963, quando Lucio, insieme ai Flippers ed Edoardo Vianello, sale su uno dei palchi della seconda edizione della carovana canora del Cantagiro. Un bagno di folla li scorta in giro per l'Italia sulle note di un motivo destinato a diventare celeberrimo. Nel continente nero, barabonzi bonzi bo, alle falde del Kilimangiaro, barabonzi bonzi bo, ci sta un popolo di negri che ha inventato tanti balli, più famoso è l'Aligalli, Aligalli, Aligalli. Edoardo Vianello e i Flippers si esibiscono al Cantagiro con i Vatussi, brano divertente e ritmato che fa cantare e ballare l'Italia intera. Il pubblico del Cantagiro è entusiasta. Il pezzo è al tempo stesso spensierato e contagioso. Confuso tra la platea a osservare divertito l'esibizione di Vianello e della sua band, c'è anche un cantautore genovese, già affermato e acclamato autore di hit come La gatta e Il cielo in una stanza, portata al successo dalla Grande Mina. Lui, naturalmente, è Gino Paoli. C'era una volta una gatta che aveva una macchia nera sul muso, e una vecchia soffitta vicino al mare con una finestra a un passo dal cielo blu. Paoli rimane folgorato dalla spiccata personalità musicale di Lucio Dalla. Impossibile non notare i suoi virtuosismi, le sue follie, i suoi geniali scatti di improvvisazione. Lo avvicina nel backstage, si presenta e inizia con lui una profonda e proficua amicizia fatta di chiacchiere, racconti, condivisione d'emozioni e naturalmente di fecondi scambi artistici. È proprio Gino a instradare Lucio sulla via di quella che sarà la sua carriera futura. Poi amico di Gino Paoli mi ha convinto a cantare perché intanto schettavo, sai lo scherzo. E allora dice, dai, facciamo uno scherzo, cantiamo, e da lì ho cominciato. E ho imparato, credo, abbastanza bene. Gino Paoli, il cui fiuto musicale è già ben sviluppato, si accorge che il talento di Lucio è sprecato all'ombra di un cantante scanzonato e radiofonico come Edoardo Vianello. Paoli vede Dalla come un solista, ne intuisce prima di chiunque altro tutto il potenziale di grande autore e interprete. Nel 1964 Paoli, già acclamato paroliere e musicista, scrive appositamente per l'amico un pezzo dal titolo «Lei non è per me», il primo 45 giri che Dalla abbia mai inciso e il primo timido passo di un percorso artistico destinato col tempo a rivelarsi strepitoso. I magnifici destini di Dalla e Paoli si incontrano per far sbocciare definitivamente la carriera di Lucio, instradandolo piano piano sulla via della maturità come cantautore. Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa. Se chiudi gli occhi lei lo sa, stella di periferia. Anna con le amiche, Anna che vorrebbe andar via. Il pezzo che sentite in sottofondo si intitola Anna e Marco ed è uno dei più struggenti che siano mai stati scritti da Lucio Dalla. Nel 1963 però Dalla non è ancora un acclamato e talentuoso cantautore, la sua carriera è solo agli inizi, anzi è lì lì per sbocciare. Quello che serve è un incontro, un consiglio, quello giusto. All'edizione del Cantagiro del 1963 si incrociano i magnifici destini di Lucio Dalla e Gino Paoli. Lucio calca le assi del palcoscenico suonando con i Flippers di Edoardo Vianello, mentre Gino, restandosene confuso tra il pubblico, lo osserva con attenzione e per primo ne intuisce l'imperdibile potenziale. Dopo la sua esibizione lo convince a lasciare la band in cui milita e a tentare la strada da solista. Da quel momento in poi Lucio cessa di essere semplicemente il membro di un gruppo per concentrarsi sulla sua complessa e sfaccettata personalità musicale. Dopo essere stato letteralmente rubato ai Flippers da un intraprendente Gino Paoli, Dalla inizia a frequentare con assiduità la cosiddetta scuola genovese, gruppo di talentuosi musicisti liguri di cui Paoli fa parte insieme a geniali cantautori come Fabrizio De André e Luigi Tenco. Mi sono innamorato di te perché non avevo niente da fare il giorno. Volevo qualcuno da incontrare, la notte volevo qualcosa da sognare. Sull'onda di melodie liriche e struggenti, come quelle celebri di Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco, Lucio incomincia a sentirsi sempre più attratto dall'idea di fare il cantante. Se prima da giovane jazzista disprezzava i canzonettari, ora l'incontro con Gino Paoli gli ha fatto decisamente cambiare idea. Credo che la canzone possa essere una maniera per parlare, per comunicare, per avere un rapporto con gli altri. Ed è proprio questo quello che vuole fare Lucio da questo momento in poi. Comunicare attraverso le canzoni, far sì che esse lo aiutino a esprimere la sua complessa interiorità. Per lui è un'esperienza del tutto nuova e proprio per questo elettrizzante. E allora fare le cose in qualche modo che non hai mai fatto è la cosa più stimolante. E non avere una preparazione ma una fiducia sostanzialmente in se stessi, ma anche nel perdono quando sbagli degli altri. E allora diventa divertente perché provi delle sensazioni nuove, capito? Lucio incide dischi per l'intero corso degli anni 60 cantando sia canzoni sue che pezzi scritti da altri. Partecipa a due edizioni del Festival di Sanremo senza mai emergere veramente. Nell'ambiente è conosciuto, gli altri musicisti lo apprezzano, ma il successo vero, quello con la S maiuscola, stenta ad arrivare, finché non gli capita finalmente un colpo di fortuna sotto forma di canzone, la canzone giusta. È la primavera del 1971. La Riviera Ligure e la Città dei Fiori sono splendide. Il clima è mite, una brezza leggera increspa l'acqua salmastra. Lucio è già stato qui negli anni addietro, stavolta però sarà diverso. La canzone che presenta al festival di quest'anno si intitola 4 marzo 1943. In assoluto sono così legato a 4 marzo, non solo perché è la mia data di nascita, ma per come è nata Pensate che io non sono l'autore del testo, però ero le tre MT, venne la Palottino, che è l'autore del testo, anche del testo del Gigante e la Bambina, e mi diede mi sottopose questo testo che io immediatamente lo musicai. E non essendoci uno strumento a quel tempo, l'Isola Tremiti, anche adesso sta nel mio studio, non sapendo cosa fare, feci. E da quel fischio nacque la canzone, che non è altro che una riedizione del Sor Capanna. Dice che era un bell'uomo, veniva dal mare, parlava un'altra lingua, però non sapeva mai. Cioè, voglio dire, è stato un gioco tra la musica popolare, non avendo strumenti in mano. Però fece veramente un miracolo quella canzone, perché andò a Sanremo, che non doveva andare, per la scattarono. E forse fu per gioco, o forse per amore, che mi volle chiamare come nostro signore. Della sua breve vita il ricordo più grosso, è tutto in questo nome che io mi porto addosso. È lo scrittore Alberto Bevilacqua a ripescare con tocco lungimirante una canzone destinata a diventare celeberrima. Un pezzo forse scomodo per l'Italia ancora bigotta e provinciale dei primi anni 70. Un paese che non può accettare che in una canzone intitolata Gesù Bambino si accenni alla prostituzione, alla bestemmia, a una gravidanza extraconiugale. Dalla sceglie simbolicamente la sua data di nascita come titolo per presentare il pezzo definitivo al festival. Numeri che evidentemente si rivelano in qualche modo magici. Ho imparato ad amare il lavoro di fare canzoni da 4 marzo in poi, perché rimasi molto colpito dal successo che regalò alla gente la canzone. Non me l'aspettavo. Il brano non vince il festival, ma si piazza al terzo posto. Il giudizio sanremese, tuttavia, non rispecchia la realtà dei fatti. 4 marzo 1943 ottiene un successo decisamente al di sopra delle aspettative, con ben 15 settimane di permanenza in Hit Parade, risultato fino a quel momento mai raggiunto dal musicista emiliano, che è subito consapevole di aver fatto il botto, come si suol dire, nel suo paese, e non solo. E poi dopo la sentì Chico Buarque e la fece in Brasile. Ele vinha sem muita conversa, sem muito explicar. Eu só sei que falava, cheirava e gostava de mar. In un ristorantino a Campo dei Fiori, celeberrima piazza romana, al musicista brasiliano Chico Buarque Gheolanda capita per caso di sentire una canzone. A cantarla è Lucio Dalla in persona, seduta a un tavolo con alcuni amici per cenare. Buarque la memorizza a orecchio, la canticchia fra sé e pensa alle parole da poter adattare nella propria lingua. Tornato in Brasile, incide la propria versione. È così che 4 marzo 1943 diventa Minha Historia, letteralmente La mia storia. Se oltre oceano la canzone di Dalla si rivela un successo grandioso, anche al di là delle Alpi le cose vanno decisamente bene. Il merito è tutto di Dalida, fascinosa interprete della versione francese di 4 marzo 1943. La carriera di Lucio ormai è proiettata verso un destino grandioso. Non solo i colleghi e la critica, ma anche il grande pubblico si è accorto del suo immenso talento. La sua ascesa sembra inarrestabile. Nel 1972, un anno dopo il successo di 4 marzo 1943, Lucio è ancora a Sanremo per la quarta volta, con la commovente Piazza Grande, dedicata a un senzatetto realmente vissuto in Piazza Cavour a Bologna. La struggente melodia che accompagna le parole è scritta assieme a Ron, nuovo talento emergente scoperto proprio da Lucio. Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è, sulle panchine in Piazza Grande, ma quando fame di mercanti come me, qui non ce n'è. Lucio ormai collabora con i più grandi artisti italiani e si diletta in varie discipline, dalla composizione musicale alla regia teatrale, senza apparente soluzione di continuità. Si esibisce e duetta con chiunque, Paolo Conte, Roberto Benigni, Francesco Guccini e persino Dario Fo, col quale gli capita di improvvisare uno strepitoso gramlò in lingua inglese. Nel 1975 partecipa al Festival del Proletariato Giovanile di Milano, da molti considerato la versione nostrana di Woodstock. Qui divide il palco con Francesco De Gregori, Giorgio Gaber, Franco Battiato e molti altri. Le sue ballate sanno essere struggenti e corrosive, tenere e infuriate, sanno parlare d'amore e irridere il potere con la stessa incisività. Sul finire degli anni 70 la figura di Lucio Dalla si profila come quella del tragicomico cantastorie più bravo d'Italia, pronto a regalare al suo pubblico ancora innumerevoli e variegate emozioni. Vedo le stanze, i magnifici destini. Ma dove vanno i marinai con le loro giubbe bianche, sempre in cerca di una rissa o di un bazar? Ma dove vanno i marinai con le loro facce stanche, sempre in cerca di una bimba da baciare? Lucio Dalla è un artista che possiede un estro fuori dal comune, oltre a una curiosità pressoché insonne. Dall'inizio degli anni 70 il suo raro talento è emerso con chiarezza lampante. Lo testimoniano, fra le altre cose, le sue collaborazioni eccellenti con grandi nomi della canzone italiana. La tournée di Banana Republic insieme a Francesco De Gregori fa il pieno in tutto il paese. A parlarcene è Gaetano Curreri, leader degli Stadio. L'idea di fare questo gruppo c'è nata nel periodo di Banana Republic, quando facciamo la tournée insieme a Dalla, De Gregori e Ron. In effetti anche il nome si lega questa, alla storia di questa tournée, che è stata forse una delle tournée più importanti, anche perché si venivano da anni in cui le tournée non si facevano più. Stupendo, sì, e poi perché effettivamente riempivamo tutti gli stadi d'Italia dove siamo stati, pieni di gente. Di fenomeni, siamo noi. Di andare in seggio via e si vergogna un po', e chi è stato addirittura in polizia. Gli Stadio prendono il nome proprio da quegli stessi stadi in cui iniziano a girare vorticosamente in tour insieme a Lucio Dalla. I membri del gruppo altri non sono che gli abili musicisti che già da tempo accompagnano Dalla nelle sue frenetiche sessioni compositive. Appena ho cominciato a fare musica ho creato intorno a me un gruppo di persone che avesse prima una funzione di accompagnamento, poi una funzione portante dal quale prendere le idee e col quale fare musica. Io avrei intenzione di presentarveli per adesso così semi-ufficialmente, uno per uno. Il primo è Gaetano Curreri, che è il lead vocal, cioè quello che canta e che fa i pezzi e che suona le tastiere. E pensare che è proprio merito di Lucio se Gaetano si impone come leader e voce degli Stadio. Lui, a dire il vero, non ci pensava nemmeno, ma da un incrocio di magnifici destini come quelli di Dalla e Curreri non possono che nascere grandi, grandissime cose. È un artigiano dal quale tu vai a bottega. Io devo tantissimo a Lucio, io non cantavo, io facevo dei coretti, ma non ero un cantante. Cioè, Dalla mi ha, non dico obbligato, ma quasi. Dalla scopre talenti e continua contemporaneamente ad affinare il suo. Nel 1979 pubblica Lucio Dalla, album omonimo contenente alcune tra le sue canzoni più celebri e rappresentative. Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità. L'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va. L'album resta un anno e mezzo in classifica e vende oltre 1 milione di copie. Per Dalla è la definitiva conferma, casomai ce ne fosse stato bisogno, di un successo straripante e duraturo. L'apice di tale successo viene toccato nel 1986, quando Lucio, insieme alla formazione degli Stadio al completo, parte per una serie di concerti all'estero che culmina negli Stati Uniti. L'esibizione al Village Gate di New York del 23 marzo 1986 diventa un disco live arricchito da un unico strepitoso inedito, La meravigliosa Caruso, dedicata alla memoria del tenore partenopeo. Il barista del porto di Sorrento non mi avesse raccontato la storia di Caruso, che lì morì e che dava lezione a una ragazza di canto senza cantare lui, perché aveva un tumore al polmone e alla gola. E stava morendo, però si era innamorato di questa giovanissima cantante che non era neanche brava, forse era anche cagna, però, e se lui non avesse sentito che la morte stava arrivando, io mi sono poi inventato il resto, non sarebbe uscito in terrazzo col pianoforte, non avrebbe cantato, e lui quando cantava, cantava così forte che addirittura i pescatori con le lampare vennero sotto il suo balcone per sentirlo cantare. E voglio ben assai. Ma tanto, tanto bene sai, è una catena ormai, e scioglie il sangue nella vena, sai. Golfo di Sorrento, 1986. Ormai è notte inoltrata. Lucio è reduce da una avaria alla sua barca e soggiorna in un albergo di Sorrento proprio nella stessa stanza in cui 65 anni prima è morto il tenore Enrico Caruso. Il mare dalla finestra della camera è scurissimo e punteggiato solo a tratti dalla luce della luna. Soffia una brezza leggera, sottile ma penetrante come un canto che proviene da un luogo distante. Quelle pareti, così come quel paesaggio, sono pieni di storia, di lirismo, di sentimenti grandiosi e struggenti. È in questo contesto magico che nasce una delle canzoni più belle che siano mai state scritte. Riascoltare Caruso, una perla nello sterminato repertorio delle splendide canzoni di Lucio, è il modo migliore che abbiamo per ricordarne la memoria fino al momento in cui, chissà come e chissà quando, potremo forse incontrarlo di nuovo. Io sono convinto che anche la morte sia la fine del primo tempo, quindi pensa a te, quindi credo che ci sia sempre una continuità il più possibile fluida. Cosa sarà che fa crescere gli alberi la felicità, che fa morire a 20 anni anche se vivi fino a 100? Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco, a dare la morte per un pezzo di pane o un bacio non dato?